la versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori della 24, 16:30 primi e 52 secondi. Oscar Giannino vi augura un buon inizio settimana, se non mi avete già ascoltato stamattina. È lunedì 12 giugno, grazie per l'ascolto in diretta in podcast. L'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it. Di che cosa parliamo oggi? No, non parliamo delle amministrative, per questo c'è già il bombardamento su ogni canale a qualunque ora. Ne abbiamo parlato stamattina, continueremo ad aggiornarvi ovviamente con IGR eccetera eccetera, comunque ne riparlerò anche domani mattina ad Attenti a Noi Due, dopo la rassegna stampa di Giulia Crivelli. Sapete che questa settimana Alessandro Milan non c'è e quindi noi lo sostituiamo e io sono da solo. Ma detto tutto questo, parliamo di sanità. Perché parliamo di sanità? Perché la scorsa settimana aveva attirato la mia attenzione un rapporto al quale dedica oggi, se volete approfondire, il Corriere della Sera due pagine, pagina 22 e pagina 23 del Corriere della Sera di oggi, lunedì 12 giugno, perché aveva attirato la mia attenzione. Tra le tante altre cose, si tratta del secondo rapporto sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, e a redigerlo, a elaborarne i numeri, e la Fondazione GIMBE. Ed è stato presentato presente il ministro della sanità Beatrice Lorenzin e con rappresentanti dell'OCSE che l'hanno fatto proprio, hanno confermato queste cifre. Ma io voglio solo dirvi il perché mi ha colpito, tra le tantissime altre cose, una alla quale giustamente il Corriere della Sera dedica oggi il suo titolo. È anche ripreso in prima pagina. In prima pagina alcune della sera dice: dossier sulla sanità, così si sprecano 22 miliardi. 22 miliardi significa che praticamente sul Fondo Sanitario Nazionale di 112,5 miliardi ce n'è uno ogni 5 sprecato. Il titolo infatti delle due pagine è: sanità, 22,5 miliardi di sprechi. Il grande sommario è: prestazioni inutili, frodi, costi standard deviati, cioè siamo ancora lontani dai costi standard, burocrazia, ogni 10 euro se ne potrebbero risparmiare 2. Allora, questo rapporto mi ha colpito per due ordini di ragioni. Primo, perché è il caso di approfondire anche la spesa in quei settori in cui la politica da anni vi dice che siamo oramai con la spesa all'osso. Ed è vero che in questi anni il contenimento della tendenza inerziale all'aumento del Fondo Sanitario Nazionale ha suscitato molte polemiche, ma c'è stato tendenza al contenimento, oramai aumenta di poco. Questo mentre in altri paesi la spesa sanitaria continuava a salire, ci ha fatto scendere un po' rispetto alla spesa sanitaria pro capite e alla percentuale sul PIL dedicata alla sanità. Ma mi ha colpito perché anche in questi settori, al di là del risparmio, cioè 22,5 miliardi di sprechi, vedremo come calcolati, in base a quali criteri, la loro attendibilità, eccetera, ma perché, come è evidente, in una società che ha la curva demografica che ha, in cui ciascuno di noi sperimenta come l'offerta sanitaria è diversificata sul territorio nazionale e con vaste aree in cui è al di sotto dell'eccellenza di altre aree in cui invece l'eccellenza è più o meno elevata, ma insomma elevata, e che contribuiscono quindi allo standard anche comparativo internazionale molto soddisfacente della sanità italiana rispetto a quella di altri paesi avanzati. Ecco, questo titolo mi ha colpito perché nel frattempo oggi sul supplemento economico di Repubblica trovate un'altra pagina, l'ho trovata a pagina 8 del supplemento Affari e Finanza di Repubblica, e il titolo recita: sanità, l'Unione Europea prescrive una cura digitale, l'Italia può risparmiare 20 miliardi l'anno. E qui è un risparmio esclusivamente attraverso l'adozione di tecnologie digitali in tutta la filiera verticale dell'offerta sanitaria, dalla diagnostica alle cure, alla telemedicina, alla prenotazione, ai device indossabili per il controllo a distanza dopo esami e screening di massa, quindi pre l'avvento di patologie, eccetera eccetera. 20 miliardi, pensate solo per questo. Ma questo, diciamo, è un esercizio di proiezione rispetto all'adozione delle tecnologie digitali in sanità. Invece il rapporto di sostenibilità redatto dalla Fondazione GIMBE è un'analisi di come li spendiamo oggi nella realtà diversificata dei diversi modelli di offerta sanitaria in tutta Italia, questi 111 rotti miliardi, e 22,5 miliardi sono veramente tanti. Dopodiché, terzo flash per farvi capire perché è importante parlare di queste cose, che sono poi gli aspetti concreti della vita italiana di cui la politica dovrebbe occuparsi di più, invece che di tante chiacchiere su chi ha vinto o ha perso le elezioni. Ovviamente le elezioni sono fondamentali per i partiti, però dico la sanità riguarda tutti. Oggi, se andate sulla Stampa, pagina 17, la Stampa di Torino, un'altra pagina dedicata alla sanità, che cosa trovate? Nella parte alta della pagina un articolo che dice: appalti senza gara al Ministero della Sanità, indaga la ministra. Lorenzin, titolare della salute, ha ordinato una relazione sul denaro destinato a società di consulenza. Qui si parla di appalti senza gara a società di consulenza, per ognuna di queste consulenze decine e decine di milioni di euro. Voi direte, sui 111,5 miliardi, vabbè, una goccia nel mare, mica tanto, perché quando non si fanno le gare neanche per le consulenze al ministero, vuol dire che la prassi è pericolosamente inizia fin dalla testa del pesce, per così dire. Pagina bassa invece, al contrario, cioè l'esatto opposto in un paese così diversificato, perché si parla dell'ospedale della Santissima Annunziata a Sassari, ecco, e il titolo dice tutto: medicine esaurite e acquisti fai da te per gli apparati, l'ospedale di Sassari al collasso, i dipendenti della Santissima Annunziata testimoniano, ci arrangiamo ogni giorno da 3 anni. Siamo stati costretti a rimandare a casa i donatori di sangue perché non avevamo le provette, dice un primario nell'articolo. Dice un tecnico ospedaliero del Santissima Annunziata: i macchinari per analisi e test non sono controllati da tempo, i risultati possono essere imprecisi. Dice un'infermiera: riusciamo ad avere con difficoltà solo l'indispensabile, qui ormai tutto è razionato da 3 anni. Un magazziniere: mancano i pannoloni per i degenti anziani, i parenti hanno risolto il problema portandoli da casa. Allora voi capite che se mettete insieme gli appalti senza gara, parti dell'offerta sanitaria italiana in cui la condizione è quella dell'ospedale Santissima Annunziata a Sassari, i 20 miliardi che prendiamo per buono questo esercizio si potrebbero risparmiare con le tecnologie digitali, il che significherebbe che ce ne sarebbero poi 20 per risolvere i problemi dell'ospedale dell'Annunziata e tutti quelli in condizioni analoghe nel nostro paese. Non significa risparmiare per spendere meno, significa avere più risorse da concentrare laddove l'offerta è dequalificata, inaccettabile, come in questo caso dell'ospedale di Sassari. A maggior ragione, allora, cerchiamo di capire il fondamento della stima di questo rapporto di sostenibilità del sistema sanitario presentato qualche giorno fa, e in cui dice, citando, vediamo, valutati come e con che voci diverse, 22 miliardi e mezzo che si potrebbero recuperare e riallocare. Allora, per parlarne, abbiamo con noi appunto il presidente della fondazione che ha redatto il rapporto sulla sostenibilità della spesa sanitaria nel nostro paese, Nino Cartabellotta. Grazie di essere con noi. Grazie a lei, buonasera a tutti i radioascoltatori. Allora, ci spiega innanzitutto la vostra fondazione, che storia è, come è fatta, eccetera, eccetera, e come nasce, con che criteri viene redatto questo rapporto annuale. GIMBE, che sta per Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze, nasce come associazione intorno alla metà degli anni 90, seguendo una serie di tendenze internazionali che riconoscevano nella medicina basata sulle evidenze, quindi evidence-based medicine, una guida per regolamentare le pratiche professionali e poi l'organizzazione e le politiche sanitarie. Negli anni GIMBE è cresciuta, è diventata una fondazione e adesso da circa 2 anni pubblica praticamente questo rapporto annuale sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale nell'ambito di una campagna che abbiamo lanciato nel 2013, che si chiama proprio Salviamo il nostro Servizio Sanitario Nazionale, perché siamo certi che si tratta di una conquista sociale irrinunciabile che dobbiamo preservare e dobbiamo lasciare anche alle future generazioni. Le faccio una domanda sull'accesso ai dati, perché io per esempio mi sono imbattuto in alcuni amici statistici, nel senso che insegnano tecnica statistica, oltre che teorica, anche applicata, e sono italiani ma sono in università straniere, che nel tentativo di mettere in studio un modello per la valutazione dei coefficienti di rischio praticati dalle assicurazioni per le patologie più ricorrenti e quelle più gravi nel nostro paese, hanno riscontrato un enorme problema di accessibilità dei dati da parte del sistema sanitario nazionale. Le faccio la domanda perché mi hanno più volte ci hanno interessati nel tentativo di risolvere, certo, questo problema, rimanendo abbastanza increduli, visto che, non devo spiegarlo a lei, la medicina giudiziale è diventata uno dei maggiori problemi per chi esercita la professione negli ospedali, ci sono delle assicurazioni che addirittura non coprono alcune specializzazioni e così via, e la loro reazione di fronte al fatto che era così complicato accedere ai dati era pressoché la totale incredulità. C'è un problema di accessibilità dei dati per redigere un rapporto come quello che voi fate? Allora, sostanzialmente il problema esiste perché i dati vengono raccolti in silos informatici spesso non comunicanti tra loro, quindi questo è un problema squisitamente di tipo tecnologico. Il secondo problema è che, essendo poi i sistemi sanitari regionali gestiti dalle singole regioni e province autonome, quindi 21 sistemi diversi, le modalità con le quali i dati vengono raccolti non sono omogenee. Alla completezza e all'accuratezza non sono omogenee. Per cui, se noi volessimo un quadro, diciamo, esaustivo di tutti quelli che sono i dati, tra virgolette, sanitari, dove ci stanno quelli economici, quelli clinici, di fatto dobbiamo andare a cercare in archivi diversi e provare a fare anche delle acrobazie di tipo statistico per certi versi, per altri di tipo informatico, per collegare quelli che sono i dati che appartengono alle singole. Eh sì, viva l'Italia, ma d'altronde questo, diciamo, della sanità è un esempio di frammentazione dove quello che doveva essere, diciamo, una valorizzazione dell'eccellenza è diventato poi una sorta, non più un federalismo solidale della sanità, ma è diventata, diciamo, una sorta di imperialismo di 21 sistemi sanitari differenti, ognuno con i propri sistemi informativi. Esatto, e vabbè, e questo è ciò anche che forse impedisce il fatto che a me sembrerebbe fondamentale, cioè che il sistema sanitario nazionale, per le patologie molto diffuse e alcune più gravi, fosse in grado, invece che di continuare con il turismo sanitario fatto su ti che ti mando io o io conosco chi eccetera, su un'accessibilità ai dati certificati, ecco, la medicina per evidenza del successo per tipi di trattamento per questa o quelle patologie, per ognuna delle aziende ospedaliere specializzate su queste, così, cosa che in Italia purtroppo non c'è e che a me sembrerebbe un'offerta di servizi fondamentale per orientarsi nell'efficienza del servizio e per rispondere preventivamente poi all'orientamento dei pazienti e dei loro familiari. Ma detto questo, ci spiega questa cifra di 22,5 miliardi in base a quali criteri e per quali voci diverse la calcolate? Allora, tengo innanzitutto a precisare che noi abbiamo lanciato questa provocazione positiva già nel 2014, sì, quando JAMA, che è una rivista internazionale, pubblicò per la prima volta la tassonomia degli sprechi in sanità, da cui emergeva che di fatto in tutti i sistemi sanitari industrializzati circa un quinto della spesa sanitaria viene assorbita da 6 categorie di sprechi. Queste cifre gli anni passati sono state fortemente, diciamo, messe in discussione sia dagli operatori del settore, sia dall'organizzazione, sia anche dalla politica, fino a quando nel gennaio del 2017 l'OCSE, che ha presentato un rapporto internazionale, sostanzialmente ha ribadito quanto noi avevamo detto 2 anni prima. Tra l'altro la rappresentante dell'OCSE è venuta anche a portare il loro contributo in occasione della presentazione del rapporto GIMBE sulla sostenibilità. L'OCSE dice a tutti i paesi: guardate che bisogna intervenire in maniera chirurgica perché ci sono tanti sprechi che si annidano a tutti i livelli e che quindi dovrebbero essere recuperati, ma non con i tagli lineari, ma intervenendo in maniera chirurgica, perché si va dalla singola prescrizione inappropriata al singolo reparto di chirurgia oncologica che fa troppi interventi, addirittura aumenta la mortalità, a quelli che sono sprechi più deplorevoli che vengono un po' dalle parti, diciamo, delle frodi e degli abusi, più in generale della corruzione in ambito sanitario, che oggi assorbe circa 5-6 miliardi di euro. Ecco, fatta questa premessa, noi cosa abbiamo fatto? Si tratta quindi di un sistema con una bidimazione importante da parte dell'OCSE sul criterio metodologico statistico seguito. Okay. Assolutamente, però va anche precisato, perché in italiano il concetto di spreco acquisisce spesso una sorta di significato dispregiativo. Certo. Cioè, molti di questi sprechi sono rappresentati da denaro pubblico investito in sanità che non produce nessun risultato in termini di salute. Anche se magari genera occupazione, per questo dicevo, si tratta più che di pensare ai risparmi in termini di minor fabbisogno da finanziare pubblico, di risorse a disposizione da allocare per innalzare la qualità dell'offerta e i suoi risultati concreti, questo è il punto. Assolutamente, infatti il concetto fondamentale qual è? Oggi perché la sanità italiana è in crisi e il sistema sanitario comincia a mostrare una serie di crepe? Perché da un lato ci sono stati troppi tagli per esigenze di finanza pubblica, dall'altra, se una quota importante della spesa destinata alla sanità viene sprecata, è ovvio che si viene a concretizzare una sorta di cocktail letale. Anche tanti perché, tagli, troppi sprechi. Mi faccio aggiungere, nelle numerose regioni del centro-sud in cui poi sono stati attivati i programmi di rientro coatto della spesa sanitaria per eccesso di debito e di deficit, i criteri che sono stati seguiti per il rientro non sono quelli indicati, tra virgolette, chirurgici del vostro rapporto, ma sono stati lineari, no, in base alla spesa storica e lineari per di più. Sì, assolutamente no, perché quello che è successo è che di fatto i piani di rientro hanno consentito alle regioni prevalentemente del centro-sud di avvicinarsi all'equilibrio del conto economico, quindi sostanzialmente di essere in pareggio di bilancio. ma questo non è stato accompagnato da un'adeguata riorganizzazione dei servizi, per cui oggi ci troviamo di fronte a un deficit sanitario di poche centinaia di milioni di euro rispetto a qualche decina di miliardi di qualche anno fa. Però tutti i deficit strutturali e organizzativi del centro-sud sono rimasti sostanzialmente immutati, peggiorati peraltro da quello che è stato un po' il blocco delle assunzioni e del turnover del personale, che complessivamente ha ridotto quello che è. E questo ha riguardato tutta la PA. Allora, per vedere le diverse categorie, tra un minuto, perché abbiamo un'informazione di servizio dedicata al traffico, come sempre. La versione di Oscar. Ecco, neanche a farlo apposta, siamo tornati in diretta, parliamo di sanità, all'occasione di questo secondo rapporto sulla sostenibilità della spesa sanitaria della Fondazione Gimbe. Avete sentito, i criteri sono bidimati, per così dire, dall'OCSE. È un problema non di anomalia solo italiana, eh? Nella spesa sanitaria dei paesi avanzati c'è una percentuale elevata, con categorie pressoché ricorrenti, sia pure con pesi diversi, di spese effettuate con criteri che non hanno un miglioramento dell'efficacia dell'offerta e che quindi potrebbero essere risorse molto più utilmente allocate in altro. E mentre andavamo in onda, leggo un'agenzia, casualmente, in ospedale a Napoli, letto tra formiche, a letto tra le formiche, denuncia dei Verdi. Stiamo parlando di un letto di ospedale infestato da centinaia di formiche. Questa è l'immagine diffusa dal consigliere regionale dei Verdi della Campania, Francesco Emilio Borrelli, di una degente ricoverata a medicina generale nell'ospedale San Paolo di Napoli. Lo stesso Borrelli afferma che si tratta di un gravissimo caso di degrado e di mala sanità. E la fotografia parla da sola, a centinaia di formiche nel letto della signora. Senza voler generalizzare, ma insomma, prima abbiamo parlato dell'articolo dedicato dalla Stampa all'ospedale Santissima Annunziata a Sassari. Allora, caro presidente della Fondazione Gimbe, Nino Caltabellotta, ci spiega queste sei categorie, sommando le quali si arriva a fare 22,5 miliardi su 111 miliardi del Fondo Sanitario Nazionale. Che categorie sono? Bene. Allora, vado per ordine, diciamo in ordine di incidenza sulla spesa. La prima categoria è quella che gli anglosassoni chiamano l'overuse, che noi in italiano abbiamo tradotto come sovrautilizzo. Cosa significa? Significa che c'è un eccesso di prescrizione, erogazione di farmaci, test diagnostici, di radiologia, di laboratorio, di visite specialistiche, perché oggi la società è un po', diciamolo, estremamente medicalizzata e quindi si cerca un po' tutto quello che è il massimo per la propria salute. In realtà molti di questi esami in eccesso, in particolare o trattamenti in eccesso, non rappresentano solo uno spreco finanziario, ma rappresentano anche un danno per la salute, perché troppi farmaci insieme producono effetti collaterali e troppi test diagnostici spesso ci fanno trovare delle anomalie che poi ci fanno entrare nei vicoli diagnostici ulteriori con ulteriori test, con interventi non necessari. E comunque questo da solo varrebbe intorno a 6,7 miliardi. Con una stima molto conservativa, perché complessivamente il Ministero della Salute qualche anno fa ha detto che la medicina difensiva, che rientra nel sovrautilizzo, costa circa 10 miliardi l'anno, quindi siamo stati abbastanza prudenziali anche in questa. Seconda categoria. La seconda categoria è quella delle frodi e degli abusi, quindi sostanzialmente tutto il denaro che viene assorbito da fatti corruttivi, che non necessariamente rappresentano o hanno una rilevanza penale, ma alcune volte sono semplicemente conflitti di interesse, quindi un po' il così fan tutti, che finiscono per assorbire circa 5-6 miliardi di euro. Poi, siccome si tratta di stime ovviamente approssimative, abbiamo inserito un più o meno 20%. E proprio nell'ultimo rapporto abbiamo dettagliato ben 53 tipologie di frodi abusive, 53 che si annidano dalle modalità di acquisto di beni e servizi, all'azione delle prestazioni, all'attività di libera professione, alle false certificazioni SEI che vengono dichiarate dal paziente per eludere il ticket. Quindi è un vero e proprio compendio dove ciascuna organizzazione può leggere esattamente quello che potrebbe succedere, dove sostanzialmente sono tutti a essere interessati, dalla politica al management, ai professionisti sanitari, ai pazienti. Quindi non si salva nessuno dal punto di vista della seconda categoria. E queste valgono quasi 5 miliardi. 5 miliardi. Poi c'è una terza categoria, che è quella che noi abbiamo chiamato acquisti a costi eccessivi. Cosa significa? Significa che molti servizi, sia sanitari che non sanitari, tra cui anche quelli di lavanderia, pulizie, mensa, ristorazione, riscaldamento, hanno delle differenze di costi molto diverse tra nord e sud, tra diverse regioni, ma anche tra azienda sanitaria e azienda sanitaria. Questa probabilmente è l'area per la quale la politica ha predisposto, grazie agli acquisti centralizzati secondo Consip, probabilmente la strategia migliore, perché adesso per un certo numero di categorie merceologiche bisogna non comprare direttamente dal fornitore, ma passare attraverso quelli che sono i cosiddetti aggregatori e che permettono ovviamente di standardizzare i costi di acquisto, tanto che quest'anno questa categoria ha subito nelle nostre stime un lieve decremento. E comunque voglio dire, anche questa terza categoria vale, esatto, un po' più di 2 miliardi. Un paio di miliardi. La quarta. Poi c'è una quarta categoria che è quella del stock. Spesso difficile da spiegare anche ai professionisti, ai miei colleghi, perché il sottoutilizzo, che per l'inglese è il cosiddetto underuse, di fatto non è uno spreco diretto, ma è uno spreco indiretto. Perché? Perché noi oggi paradossalmente assistiamo al fatto che alcune prestazioni che sono efficaci, appropriate, quindi che funzionano per migliorare la salute, sono sottoutilizzate. Facciamo pochi screening oncologici in alcune aree del paese in particolare, il tasso vaccinale è diminuito, i pazienti anziani con patologie croniche non adeguata compliance terapeutica, per cui poi i pazienti si trovano a essere assistiti per complicanze o comunque per fasi più avanzate di malattia, perché alcune prestazioni sono state sottoutilizzate. E questo dipende dal fatto che esiste un accesso non omogeneo all'assistenza sanitaria, ma anche dal fatto che i professionisti per certi versi prescrivono troppo e per altri versi prescrivono poco. Quindi noi lo abbiamo chiamato un inadeguato trasferimento delle conoscenze scientifiche alla pratica clinica, ma anche all'organizzazione dei servizi sanitari. E qui nel sottoutilizzo, e nel sottoutilizzo c'è anche un problema serio collegato al fatto che nel sottoutilizzo finiscono vaste aree della povertà assoluta del nostro paese, con tanto di concentrazione geografica, esattamente, che non riescono a accedere per ragioni geografiche, linguistiche e razziali all'assistenza sanitaria, e anche quelli che oggi rinunciano alle cure, che esatto, rappresentano di fatto una sorta di spreco. Perché? Perché poi nel momento in cui questi peggiorano avranno ovviamente... Quindi è un problema sociale ed è un problema poi di impatto più avanti sul costo complessivo. È un problema economico e un problema clinico, quindi di fatto vengono coinvolti tutti gli aspetti. Allora, quinta categoria. La quinta categoria comprende tutte quelle che abbiamo definito complessità amministrative, che sono legate un po' all'ipertrofia del comparto amministrativo in sanità e alla limitata tecnologie informatiche, esami che vengono ripetute varie volte quando i referti sono già esistenti, difficoltà di prenotazione e ritiro dei referti da parte dei pazienti. E arriviamo a 2 miliardi e mezzo. L'ultima? E arriviamo. L'ultima riguarda, diciamo, quello che è il cosiddetto effetto ping pong, dove il paziente passa dall'ospedale al territorio per un inadeguato coordinamento tra i servizi che sono quelli ospedalieri e quelli territoriali, dove spesso i servizi non sono ben collegati tra di loro e quindi assorbono quasi altri 3 miliardi di euro. E sono altri 3 miliardi, sommati si arriva a 22 miliardi e mezzo. Com'è il sito dove chi volesse informarvi trova il testo completo? Il sito è www.rapportogimbe.it ed è possibile anche una consultazione pubblica che ci permette, anche grazie ai contributi dei professionisti ma anche dei cittadini, di mantenere costantemente aggiornati. Io vi ringrazio per quello che fate a nome di tutti i cittadini italiani. Continuate anche voi ascoltatori su Radio 24. Appuntamento con me domani alle 8:20 a Tentene 2.